Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, benvenuti ai nostri incontri di questa domenica. Forse non tutti l'hanno riconosciuto, ma le note che avete sentito sono le note dell'inno nazionale svizzero, un po' per rendere omaggio all'ospite di oggi, che è l'ambasciatore svizzero in Italia, Bernardino Regazzoni. Buongiorno, ambasciatore. Buongiorno, Regazzoni. Direttore. Grazie mille di aver accettato il nostro invito. I rapporti tra Italia e Svizzera sono stati contrassegnati nel tempo da una grande vicinanza, da una grande amicizia. Vedremo adesso, qualche piccolo problema negli ultimi mesi c'è stato, però com'è un po' tradizione dei nostri incontri, iniziamo parlando di lei, iniziamo parlando della sua esperienza, iniziamo a parlare un po' di come si diventa anche ambasciatore in Svizzera. Bernardino Regazzoni, quindi un cognome ticinese, lei è di origine della Svizzera italiana. Luganese. Luganese, quindi come si è formato e come ha deciso di fare l'ambasciatore? Sono diventato ambasciatore, credo per caso, si dice in francese che il caso fa bene le cose, aggiusta bene le cose. Dunque io ho studiato tra l'altro in Italia, ho studiato filosofia, pensavo a una carriera accademica, a un certo punto sono intervenuti dei fattori, come spesso anche personali, che mi hanno spinto a tentare il concorso per la carriera diplomatica. È difficile in Svizzera il concorso per la carriera diplomatica? Il concorso per la carriera diplomatica in Svizzera è aperto a chiunque detenga un titolo accademico e l'esame, diciamo, essendo il ventaglio abbastanza largo, l'esame è molto selettivo e fa sì che poi alla fine un numero ristretto rispetto ai candidati acceda poi al servizio diplomatico. Lei era laureato in filosofia? Sì. Quindi non pensava all'inizio di fare l'ambasciatore, pensava no. Più di fare il ricercatore, lo storico. Ah, diciamo il professore. Il professore, ecco. E poi questa occasione della carriera diplomatica, che ha avuto inizio, come si svolge appunto la carriera diplomatica in Svizzera? Penso come poi negli altri paesi. Ci sono stati dei cambiamenti col tempo, ma grosso modo il percorso è seguente. Si comincia un breve soggiorno all'estero, diciamo come stagista, si viene confermati o non confermati dopo questo stage all'estero e poi la carriera si divide tra il ministero a Berna e i posti all'estero. Nella mia carriera ho fatto grosso modo metà per grossi blocchi, metà al ministero e metà all'estero. Il primo blocco in Africa, due posti in Africa, il secondo blocco 10 anni al ministero, il terzo blocco 8 anni in Asia e ora in Italia. E ora in Italia, che era un po' forse il suo sogno iniziale, una sede importante, penso che Roma sia considerata una sede tra le più importanti per un diplomatico. È una sede importante per la Svizzera perché si tratta non soltanto di un paese vicino, di uno dei nostri grandi vicini, ma anche diciamo un partner di primissimo livello sotto il profilo economico, ma sotto ogni altro profilo del lavoro diplomatico. Ecco, com'è diverso, diciamo, il lavoro dell'ambasciatore rispetto ai paesi? Essere ambasciatore in Africa può voler dire difendere ovviamente gli interessi dei cittadini svizzeri in quel paese, ma anche avere delle relazioni politiche politiche ed economiche con i responsabili di questo paese. Ecco, come si svolge l'attività di un ambasciatore a prescindere un po' dal paese in cui vive? Diciamo, ci sono certe costanti e certi aspetti che possono divergere molto da un paese all'altro. Gli aspetti che possono divergere, quelli che ha ricordato lei, dipende da quali sono, se c'è una forte colonia svizzera, se c'è dei forti interessi economici, se c'è delle relazioni politiche molto strette, eccetera. Questi sono gli aspetti divergenti. Gli aspetti costanti sono il lavoro di ambasciatore, il lavoro di diplomatico, un lavoro di relazione. Quindi è fondamentale, arrivando in un paese, costruire una buona rete di contatti e questo direi che è una costante per tutti i posti. La Svizzera è per tradizione e per costituzione un paese neutrale. questo comporta anche che l'ambasciatore sia un diplomatico, anche come si dice normalmente, usare la diplomazia per essere al di sopra delle parti. Dunque, la neutralità, esiste una definizione giuridica che è quella che orienta la nostra politica estera. Significa, in caso di conflitto, non si parteggia, non si sostiene nessuna delle due parti. Primo. Poi, diciamo, c'è un significato, diciamo, più immateriale legato alla Svizzera, sempre dei valori positivi, ma che non influenzano direttamente l'azione. Spero che questo coincida con una più grande presenza di skills diplomatici. Mi è mai capitato di fare da mediatore, di essere scelto come mediatore proprio per la sua qualità di rappresentante di un paese al di sopra delle parti? Diciamo, quanto più si avvicina a quanto, non proprio mediatore, ma un sostegno alla soluzione di un conflitto, e quanto mi è successo in Sri Lanka. All'epoca era l'epoca del cessate il fuoco fra il governo e le Tigri Tamil, poi si sa come le cose sono andate. C'era un mediatore ufficiale, ma un gruppo di paesi era anche associato al processo di pace. Questo è stato il caso della Svizzera. Tra il 2004 e il 2006 abbiamo anche ospitato due round di negoziati a Ginevra. Ecco, che ricordi ha prima di arrivare in Italia di questi paesi? Un ricordo particolare magari a cui è particolarmente legato in Africa o in questa esperienza in paesi asiatici? Sono dei pezzi di vita e quindi sono sempre dei ricordi molto, molto forti che restano. Tra i lati belli della carriera diplomatica c'è di averne molti nella vita, tra i lati brutti c'è di doverli lasciare. Cosa ha lasciato con maggiore nostalgia? Dove magari torna qualche volta per vacanza? Per il momento non sono mai tornato, ma credo che ora sia giunto il momento di ritornare in uno o nell'altro dei posti che ho fatto. Uno di questi? Indonesia. Ah, in Indonesia. Incontri. Bentornati sulle note del Salmo Svizzero per salutare l'ambasciatore Bernardino Regazzoni, con cui abbiamo appunto percorso nella prima parte del nostro programma la sua carriera diplomatica, una carriera diplomatica che è iniziata appunto in paesi africani, in paesi asiatici, e che ora da qualche mese si svolge a Roma, ambasciatore svizzero in Italia. Come è arrivato a Roma? Con quali speranze, con quali propositi? Dunque, sono arrivato a Roma in maniera inaspettata per delle circostanze che forse si sanno, diciamo il decesso ahimè prematuro del mio predecessore, che ha un po' accelerato i tempi. Arrivo anche in un momento inaspettatamente dove un certo numero di, accanto diciamo al mainstream di relazioni positive molto importanti, si sono cristallizzati alcuni problemi, soprattutto in ambito fiscale, cosiddetto scudo fiscale, e problemi attinenti. Quindi è stato, me l'avessero detto un anno o due fa, non me lo sarei immaginato. Ecco, perché i rapporti tra Italia e Svizzera sono stati sempre contrassegnati da una grande amicizia, da una grande apertura, da una grande collaborazione, quindi anche lei, pur vivendo prima in altri paesi, aveva un po' l'occhio sui rapporti diplomatici svizzeri, e l'Italia è stata sempre un partner molto aperto, molto costruttivo. Quindi in questa prospettiva è stata un po' una sorpresa trovarsi di fronte immediatamente a dei problemi e a dei rapporti un po' ruvidi. Diciamo, gli aspetti positivi e di amicizia che lei ricorda, grazie al cielo, ci sono tutti e continuano a svilupparsi. Certo, questo problema specifico poi un po' scolorato o ha dato un po' la tonalità anche ad altri, non dico all'insieme, ma diciamo ma un ampio raggio delle relazioni bilaterali, e diciamo è necessario ora diciamo impegnarsi affinché possiamo risolvere globalmente, certo, questi problemi. Ecco, questo anche perché ci sono molti italiani svizzeri che sono emigrati negli anni soprattutto 60 e 70, ci sono molti svizzeri in Italia, forse di un'emigrazione precedente, di un altro tipo di immigrazione, sono molti imprenditori svizzeri in Italia, ci sono molti lavoratori italiani che quotidianamente vanno a lavorare in Svizzera, quindi ci sono tutti i contorni per avere dei rapporti costruttivi. Assolutamente, diciamo, quanto lei ricorda, la presenza italiana in Svizzera è una presenza molto apprezzata ormai da molte generazioni, nella storia e in maniera più recente con l'immigrazione. Ma poi, diciamo, ci sono altri aspetti importantissimi che sono meno conosciuti. Lei li ha evocati en passant. L'importanza delle relazioni economiche. L'Italia è per la Svizzera il secondo partner economico. Abbiamo un volume di scambi di 27 miliardi di euro, cumulando esportazioni e importazioni, quindi un volume enorme, superiore a qualsiasi altro BRIC. O un altro aspetto che salta all'occhio è l'importanza degli investimenti diretti svizzeri in Italia, vuol dire imprese svizzere che producono in Italia. Abbiamo un volume cumulativo di, credo, 15 miliardi di euro, 80.000 posti di lavoro. Questi sono aspetti molto importanti, ma che io stesso, arrivando in Italia, sono stupito della poca conoscenza che li circonda. E quindi è un aspetto importante anche per il fatto, appunto, che queste relazioni sono anche relazioni di tipo culturale, soprattutto in Lombardia, con il Ticino ci sono molti rapporti anche a livello proprio personale, sociale, familiare, quasi con la Svizzera. Quindi c'è una frontiera molto aperta tra l'Italia e la Svizzera. Decisamente sì. Si tratta di portare adesso queste relazioni che personali, importanti o regionali nel nord dell'Italia, soprattutto a conoscenza di un pubblico più vasto. Ecco, anche questo forse possiamo fare oggi. E allora guardiamo un po' al problema, poi, che è stato un elemento di contrasto in questi ultimi mesi, quello che lei ha già citato, lo scudo fiscale italiano. Si è chiuso il 30 aprile, possiamo adesso guardare in avanti e dire, vabbè, sono stati contrasti un po' anche creati ad arte per favorire un rientro di capitali di cui l'Italia aveva comunque bisogno, ma possiamo pensare che siano state delle mosse tattiche, ma che la strategia di lungo periodo resta quella di un'amicizia di fondo e di rapporti costruttivi? Dunque, lo scudo fiscale in quanto tale non è mai stato il problema, è una misura sovrana dello Stato italiano, un'amnistia può essere presa in qualunque momento da qualunque Stato. Forse sono stati i toni che hanno accompagnato i toni che hanno accompagnato queste misure, che sono stati recepiti in maniera, diciamo, proprio come un linguaggio talvolta ostile. Come lei ha detto, si tratta ora di pervenire in tempi rapidi a una soluzione globale di tutte le questioni fiscali legate a questa problematica. Certo, in primo luogo un accordo di doppia imposizione nuovo, diciamo di nuova generazione, adattato agli standard OCSE, ma accanto a questo anche di legare un certo altro numero di misure, diciamo, la Svizzera fu pur sempre l'oggetto di liste nere, che evidentemente nel quadro di una soluzione globale dovranno cessare, la questione anche dell'accesso al mercato, dei servizi finanziari svizzeri, eccetera. E questo tutto quanto concerne la soluzione cosiddetta globale. Ecco, si sta lavorando su questo fronte, senza svelare segreti diplomatici, comunque il canale di rapporto tra Italia e Svizzera è aperto per verificare la possibilità di avere appunto questo nuovo accordo sulla doppia imposizione, per esempio? Sarebbe un paradosso se non lo fosse, diciamo, sarebbe veramente sorprendente. Certo, i contatti sono in corso, si tratta ora di entrare in una fase di negoziale più strutturata. In questa prospettiva dei rimproveri che vengono fatti alla Svizzera è questo segreto bancario, che è visto come qualcosa che ha un valore quasi di difesa di un principio essenziale. Però anche il segreto bancario si è trasformato, si è adeguato in fondo negli ultimi anni ai principi di lotta alla criminalità. Giustissimo, diciamo, come nel caso della neutralità c'è una parte reale, una parte che corrisponde un po' al mito. I conti cifrati non sono mai esistiti o non esistono, nel senso che uno dei principi fondamentali per il banchiere è quello di conoscere il proprio, know your customer, conosci il tuo cliente. La Svizzera è l'avanguardia per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro sporco, la restituzione anche agli stati di origine di denari provenienti da persone politicamente esposte o ex dittatori. Per esempio, per quanto riguarda il segreto bancario nel suo nucleo, la Svizzera ha deciso di adottare gli standard OSCE e di conseguenza di passare allo scambio su domanda di informazioni da parte a beneficio delle autorità fiscali straniere. E peraltro la Svizzera ha già fatto accordi con altri paesi come la Francia o la Germania sul fronte dei controlli fiscali. Dalla data dell'annuncio nel marzo 2009 sono stati conclusi 22 accordi che si trovano per la maggior parte davanti al Parlamento, o sono stati parafati o se sono stati firmati si trovano ora davanti al Parlamento, quindi siamo in buona compagnia, aspettiamo di poter raggiungere l'Italia. Ecco, la Svizzera sta realizzando, per passare a un altro argomento, delle grandi infrastrutture, per esempio la galleria di base del Gottardo, che permetterà anche all'Italia, che sarà uno dei maggiori beneficiari di questa grande opera, che peraltro mi sembra finanziata completamente dalla Svizzera, ecco, sta realizzando una via di accesso tra il nord e il sud dell'Europa. Questo vuol dire che la Svizzera sarà solo un punto di passaggio? Buona domanda. In primo luogo diciamo, è un contributo dato dalla Svizzera alla soluzione dei problemi futuri, per i decenni futuri, di viabilità e di mobilità in Europa. Non riguarderà soltanto le regioni limitrofe, ma riguarderà diciamo, i corridoi economici da Rotterdam fino a Genova e oltre. Avremo quest'anno una data simbolicamente importante, la caduta dell'ultimo diaframma in ottobre di quest'anno, e la galleria sarà pronta secondo il piano nel 2018. In questa prospettiva, allora, la Svizzera diventerà anche un po' più europea, un po' più legata all'Europa. La politica svizzera verso l'Europa è stata sempre un problema un po' critico, c'è sempre un atteggiamento di separazione dall'Europa. Come giudica l'evoluzione del dibattito europeo in Svizzera? Dunque, prima di tutto, la Svizzera ha dei rapporti strettissimi con l'Europa, non soltanto da un punto di vista geografico, ma dal punto di vista degli accordi che abbiamo sottoscritto con l'Europa, con l'Unione Europea, che riguardano dei campi importantissimi come per esempio la libera circolazione di forza lavoro o l'appartenenza al gruppo di Schengen. Il dibattito sull'Europa è il dibattito sull'adesione all'Unione Europea, che è un dibattito che ci accompagna e che ci accompagnerà, credo, anche in futuro. Non sono in grado di dire quando o se un tale passo sarà compiuto, ma certamente sarà un dibattito, una questione che ci dobbiamo porre in permanenza. In un certo senso si rimprovera alla Svizzera di voler avere tutti i benefici dell'Europa senza sopportarne i costi. Lei può smentire questa ipotesi? Non è solo un fatto di avere dei benefici. In occasione dell'estensione o dell'allargamento dell'Unione Europea ai 10 nuovi membri d'Europa centrale ed orientale, la Svizzera ha pagato, e non soltanto il governo svizzero, ma con l'approvazione della popolazione svizzera, in quanto è passato attraverso il referendum, sostanziali, un contributo sostanziale allo sviluppo di questi nuovi Stati membri. Quindi direi che la nostra solidarietà europea è molto chiaramente dimostrabile. Quindi c'è una solidarietà europea, resta la nazione svizzera, resta la confederazione, resta il franco svizzero come simbolo, in fondo, come moneta unica europea, nel senso che è l'unica moneta che rimane al di fuori dell'euro come grande moneta internazionale. La sterlina. Anche il dollaro e la moneta cinese, indubbiamente. Però il franco svizzero resta un po' il simbolo della Svizzera. Ecco, una Svizzera che forse vuole avere un'immagine che vada un po' al di là della Svizzera, solamente delle banche, solamente dei capitali, solamente di quello che può essere un rifugio, che come abbiamo visto però è un rifugio con molti, molti limiti. In quale immagine vuole dare, stiamo andando verso la conclusione, della Svizzera nella sua opera in Italia, ambasciatore Razzoni? Io credo che sia positivo, diciamo, essere associati automaticamente a delle immagini. Mi hanno spiegato che questo significa branding, ed è qualcosa di positivo. L'importante è andare al di là, e al di là di questi sono delle porte d'entrata. Concepisco il mio compito anche come ambasciatore in Italia, quello di invitare al di là di queste porte d'entrata a conoscere la Svizzera come un paese aperto, come un paese urbano, come un paese di innovazione, come un paese di immigrazione. Abbiamo più del 20% della nostra popolazione costituita da stranieri, questo è un apporto fondamentale e positivo. Ecco, un invito a meglio conoscere questi aspetti meno conosciuti del mio paese. Allora ringraziamo l'ambasciatore Bernardino Regazzoni di essere stati con noi. Raccogliamo questo invito a conoscere la Svizzera, a conoscerla probabilmente per capire appunto un paese certamente diverso, certamente complesso, ma che l'Italia ha sempre avuto vicino, anche perché una parte della Svizzera è di cultura italiana oltre che di lingua italiana, e l'ambasciatore Regazzoni forse in questa fase è l'italiano che rappresenta la Svizzera meglio in Italia. Grazie ambasciatore, grazie a quanti ci hanno seguito.